perché. Tu sei ritornata da me. Sei qui accanto a me, accanto a me. Mai più ripartire potrai. Mai più senza me tu vivrai. Perché tu sei nata per me, io sono nato per te e mai più mi lascerai. Ti lascerò. Accanto a me.